già. Non dimenticherò mai il mio povero babbo. Quando questo capitava a lui, beh, sa che cosa soleva dirmi. Cosa diceva? Quando la sorte t'è contraria e mancato te il successo, smetti di far castelli in aria e va a piangere sul... Radio Bomba. This is Radio Bomba. E buonasera e benvenuti alla 47esima puntata di Fuoco alle Polveri. E là. Voce incredibile. Quale voce? No, non lo so, la tua forse? No. Sbagli. Allora, sbagli, caro. Qual era il tuo nuovo nickname che poi avevi cambiato? Nino. Tutte le volte me ne scordo. Ciao Nino. Ciao ragazzi, Nino. Che bello essere qui. Davvero incredibile. Bellissimo. Caramba, sì. Proprio. Dopo due anni finalmente sei tornato. Dopo due anni. Ah no, è meno. Dopo la guerra è stata 47 dura, è stata giorni dura. Forse. Però ce l'abbiamo fatta. Quindi oggi ci regali qualcosa di oggi magico. Regalo, sì, a grande richiesta tua. Tu, tra l'altro, io ho portato Verissimo. quanto già mi tenevo sul groppone da un po' di tempo e finalmente ho colto l'occasione. Non posso che ringraziarti. Ti ringrazierò ancora di più dopo quando scoprirò perché non di mi ricordo cosa ti avevo chiesto. Buono. Secondario, sì. Allora, ciao JP, ciao Grande Drago, ciao. Lapo, ciao. Ci abbiamo t'aspetta qui dietro che, di cui ho bisogno. In questo momento se gli puoi passare il microfono. Allora, 47, lo stavamo guardando insieme, 47 come numero 47, va bene? Cioè, perché facile, come facile. Numero 47? Perché è l'unico numero ad avere un fan club. Ah. Ebbene sì. Al mondo. Ora, stavamo guardando appunto se fosse una fake, come un pool di qui tremenda, se... oppure se ci fosse qualche cosa di interessante. Direi una via di mezzo. È stato proprio una vera e propria investigazione nella cospirazione del 47. Perché c'è questo sito che è www.47.net, The 47 Society, che è questa fan club del numero 47. Ci chiedevamo, ma che è sto fan club? Ma che è uno di quei gruppi in cui riconducono tutto a un numero? Esatto, tipo. Bravo, se sono questo, più questo, più questo. Bravo, grande lago, preparatissimo. E praticamente abbiamo appunto indagato su questa cosa e abbiamo scoperto che questo fan club del 47 è nato da questo professor Donald Bentley della Pomona College, esattamente, in California. Esatto, ed era praticamente fondamentalmente uno scherzo di questo professore che riconduceva tutto quanto al 47. E qualcuno ci è cascato oppure hanno fatto un... Probabilmente sì, certo, sì. Probabilmente. Per quello che ho capito, diciamo che lo scherzo tra virgolette si è allargato, cioè era un po' uno sketch all'interno del suo corso, peraltro, no? Ma magari c'è anche qualcuno che ci crede. Ah vabbè, c'è sempre qualcuno che ci crede. Però a minare la serietà di questo è che se tu vai a vedere poi Link si infila di mezzo Star Trek. E quindi... quindi possiamo chiudere qua direttamente. No, perché i Link, ah no, ero in una fase giusta. Link appunto, no, dov'era? Aprire, veramente, guarda, solamente mangiano il computer. Ma chi mi mangia il computer? E quindi teletrasporto Grande Drago e va bene. Spariamo tutti dalla redazione. Andate a farvi due risate. Qualcuno quindi chiamato. Sul sito di il 47 Society. E questo è il 47 di oggi. Bene. Poi ce ne abbiamo anche altri in realtà. Noi abbiamo mille. Kalashnikov tipo, sì, in effetti sì, la K47. In effetti è l'arma più usata nel mondo, tipo. Esatto. Sì, e tra l'altro il suo inventore, ossia il signor Kalashnikov, una volta caduta l'Unione Sovietica e ritiratosi in pensione, si è pentito di quello che ha fatto, ha dichiarato di essersi pentito di aver costruito questa arma micidiale e ha iniziato a produrre vodka. Ah, oh, bravo. Beh, giustamente. Giusto, e... perché è l'arma più facilmente costruibile. Tipo facilmente riuscibile la vodka, sì, no, la vodka, la K47 che spara vodka. E quindi niente, siamo qui, siamo pronti oggi. Bellissimo. Diverse questioni da affrontare, sì. O anzi da far affrontare ad altri, sì. Certo. Noi ce ne fottiamo, ma perché sappiamo che sabato c'è stata appunto la manifestazione Dico sì. Bene? Sì, sì. Non mi guardate con faccia attonite. No, non ti preoccupare. sappiamo annulliamo in silenzio. C'è stata una diretta di Radio Wombat, no? Lapo, se mi confermi, c'è stata poi con la diretta. Testa, bravo. Grazie, Lapo. Grazie. Fai come i giochini. Lo ti vediamo, è divertente per quello. Non e però ci sono, insomma, abbiamo raccolto anche delle interviste. Dunque vi faremo sentire un po' delle voci da direttamente dal corteo. Sì. E a questo punto però direi, pezzaccio? Ecco, pezzaccio, di sollazzarci un attimino con dai, pezzaccio. Un attimo di tranquillità. Allora, Only You at regia per ora. E cosa ci lascia? Abbiamo God of the Basement, Kind of Slow. Thank you so much, Wombat. Kind of slow. Grazie, grazie, ecco. E vi ringrazio. Dicevamo, dopo questo pezzaccio, sì, ci ascoltiamo direttamente, direi che possiamo andare direttamente, visto anche le tante cose che vogliamo fare durante questo lungo pomeriggio. Ma sì, andare in bagno, andare a prendere a mangiare. Esatto. Mandiamo direttamente gli highlights della giornata di sabato. Ok. Le luci alte. E il... della manifestazione. Abbiamo Radio Wombat ha raccolto per noi e per tutti gli altri ascoltatori, per tutte le altre trasmissioni, delle voci dalla manifestazione di sabato. Ricordiamo manifestazione, ecco, antifascista partita da Piazza San Jacopino e in ricordo di Samba Diop, ossia i due ragazzi uccisi da Casseri, vi ricorderete? Piazza Dalmazia. Piazza Dalmazia, strage Piazza Dalmazia, e ne avete parlato, io non c'ero, mi sembra, anche nella scorsa puntata.

non so, radicati e non hanno quella reale legittimazione all'interno degli studenti che sembrano avere. Certo è che però a livello istituzionale vengono legittimati. Ok, ma la rete dei collettivi farà delle cose a tema, a proposito? Vi siete trovati? State pensando a delle cose? La rete dei collettivi, come sempre, essendo schierata come collettivi e quindi come studenti antifascisti, ti prospetta l'obiettivo, come ogni antifascista in questa città, di chiudere tutti come fascisti e di non dare loro alcuna libertà di espressione. Questo ovviamente in ambito studentesco può essere fatto opponendoci a ogni loro volantinaggio, a ogni loro azione di fronte alle nostre scuole. Ok, va bene. Ti ringrazio per l'intervento. Il corteo è finito, vero? Cioè siete tornati in piazza Puccini? Se scusami, in piazza Santiago Pino. Come? Non vi... Dicevo, il corteo è finito, no? Sta andando a concludersi, siete tornati in piazza Santiago Pino. Ok, va bene. Allora, niente, concludiamo anche con questo tuo intervento la diretta. Vi lascio a un po' di musica. Ti ringrazio tanto per l'intervento. Ciao. E si conclude così con quest'ultima intervista, questa giornata di Radio Wombat, a seguire il corteo antifascista che è avvenuto nelle zone tra San Jacopino e Piazza Puccini questo pomeriggio. Vi lascio adesso ancora con un pochino di musica, ma proprio qualche minuto, e poi spengo tutto e ritorna la bobina solita che avete già sentito mille volte. Una buona giornata e ci risentiamo nelle dirette di Radio Wombat domani lunedì. No, scusate, domani è domenica. Domani è domenica. Ecco. Va bene. Buona giornata. Un popolo dovrebbe capire quando è sconfitto. Se incappi in culto e muscio, io flow. Il mio mondo un altro volto, il volgo d'oltre lima e si ritira solco a solco. Io corpo a corpo, volto a volto, il rap col volto a volto ti porta a un altro mondo. Porto il passato al presente, qua il sangue pulsa le tende, ma con un ricordo confuso vivo in un mondo chiuso nella mia mente. Sì, da sempre stabile contro assalti e cariche scrivo, dall'avamposto più esposto alle invasioni barbariche. Non c'è niente che c'è ne ricrepere un cranio potente, terre d'oriente occidente, non cielo qui, cielo e tutelo lettere e scienze. Ma da qui non mi sposto, non mi sposto. Già respinsi la calata degli alani sopra il Bosforo. Sto posto sul limes non cede, non recede d'un piede, non cede i colpi di testa all'ira funesta dei colpi di testa da dietro. Sì, corpi senza testa né niente, ribollente d'orgoglio li stacco dalla parete con l'olio bollente. Ma tiene botta al man, costa calotta al man avanza mano a mano, ammazza colpi dalla barba. Ma trafico i brutti frutti figli d'una schiatta barbara, si contorcono per terra come in una danza macabra. Goti o strogoti, vandali, cimbri non temo, rimando i primi oltre il Reno, gli altri oltre il Mar Nero. In trireme no, non teme. Qui sì, sia poetica, epica ed etica, il baluardo della cultura romana ed ellenica. Scetta flow, porto i lucidi stili unici. Scetta bro, sono i classici contro i trucidi. Vincerò come i campi catalaunici. Murrupo, i farfanti pronti a distruggerli. Io flow, porto il rap col flusso d'urto, il rap col giusto flusso porta il bellum ius. Io flow, arti e busto, armi e fusto, non passi oltre il Danubio se incappi in culto e muscio. Io flow, il mio mondo un altro volto, volgo d'oltre lima e si ritira solco a solco. Io corpo a corpo, volto a volto, il rap col volto a volto ti porta a un altro mondo. Concerti, rap, concerti, teschi, innalza teschi freschi. Io flow, ora man, tu stringi denti, marchio, beat selvaggi con ferri incandescenti. Io flow, il mio mondo una altro volto, il volgo d'oltre lima e si ritira solco a solco. Corpo a corpo, volto a volto, il rap col volto a volto ti porta a un altro mondo. E rieccoci qua in diretta con le polveri. Davvero. 17:12, l'ora della surprise. Aspetta, un grandissimo flow, grandissima knowledge. Grazie, grazie per di Murubutu, ma c'è anche qualcun altro che ci porta la sua knowledge, la sua conoscenza. Sì. Cioè, scusatemi, allora stiamo facendo questo, stiamo mandando la sorpresa, caramba, è surprise e sì, si batte la sorpresa. Ringraziamo intanto. Ecco, infatti, per torniamo un secondo dalla indietro. Manifestazione. Esatto. Giusto, c'è professionalità nelle vostre voci. Sì, sì. No, allora sì, ringraziamo allora tutti quelli che sono intervenuti direttamente dal corteo per raccontarci. Sì. E anche chi è stato in regia a dare una mano, a fare a condurre. E nulla, è roba abbastanza importante, appunto avete sentito i diversi contributi dei comitati di Saihopino, degli studenti, e di tutti, insomma, delle altre antifascisti che erano in piazza per diverse motivazioni, e poi sono, diciamo, cioè diverse motivazioni che li spinge poi a scendere in quella piazza. In realtà poi la motivazione è molto simile a quella, sì, cittadina, cosa, la motivazione, la motivazione, sì, cittadina, la motivazione non è certo cittadina di quartiere e basta. Esatto, anche se appunto c'erano comitati di quartiere che sono nati per la nascita dei serie fasciste in un buon numero in quel quartiere lì. Direi. Esatto. E niente, abbastanza importante direi. È importante, no, io anche, secondo me anche ricordare quella giornata lì in Piazza Dalmazia, che è stato forse una delle giornate più nere per questa città degli ultimi tanti anni, tanti decenni direi. Assolutamente, secondo me non si deve neanche sottovalutare anche questa voce degli studenti che ci raccontano che anche all'interno delle scuole, dei licei, per quanto siano vaghe e prive di una reale interesse vero degli studenti, ma derivante scienza del fascismo. Esatto, derivante più che altro invece da non interessarsi. Sì, assolutamente, ma appunto raccontavano di questa scuola superiore di Sesto Fiorentino, che è il Calamandrei, in cui era stato invitato un esponente nazionale di Casa Found a parlare ad un'assemblea studentesca, e poi vabbè, sì, ci sono messi con l'avallo in mezzo della presidenza, sì, della scuola, sì, e poi si è difesa anche dicendo, no, a un certo punto, se non sbaglio, non lo so cosa ha detto. No, se non sbaglio, aveva detto. Cioè, inizialmente ha detto no, che non sapeva niente. Che non sapeva che facesse parte di Casa Pound. Così, poi in realtà invece, cioè, si è contraddetta da sola. Sì, ma poi benissimo. Se la preside, cioè, devi sapere. Non è che non puoi non sapere. Sì, e comunque, appunto, è abbastanza inaccettabile che un membro nazionale di un partito, in tutto questo, per di più fascista, presenzi nelle scuole. E grazie all'opposizione poi dei collettivi di quella scuola lì, è stata un'iniziativa, è stata fermata, quindi scampato pericolo, occhi aperti, perché ci provano, e non sono tanto gli studenti delle superiori che interessati a quei temi invitano, ma più spesso sono studenti o sedicenti studenti più grandi che entrano in contatto magari con dei ragazzi che controllano un po' più dall'alto, esatto, situazione, che provano a inserire i loro capetti. Sì, leggevo degli articoli proprio su questo, che raccontavano, insomma, alcuni studenti raccontavano che quelli del blocco studentesco, esatto, si avvicinano a i soggetti più deboli, cercando di tirarli dentro a sé. Chissà come li individuano, penso con i loro parametri fascisti. Si travestono da donne, quelli che gli sembrano più sfigati. Che non tipi so. E sono. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Basta pensare ai fascisti, basta parlarne. E ci hanno rotto il cazzo. E abbiamo un grande ritorno. Avevi già sentito la voce, caramba, che surprise! Siamo abbiamo felicissimi. Direi. Sigla per forza. Sigla. Anger, ugora pezze, ma che già fa? bene. Ben trovati, raga, che bello, eh? Ciao a tutti. Un grande ritorno. Ciao a tutti dalla meravigliosa e accaldatissima regia di Fuoco alle Polveri. Scherzi. Nonostante qua a Firenze faccia un freddo dell'anima proprio, sì, la cattiveria, sì, dell'arrivo del Natale. Noi, tutto questo in piccola introduzione, ce lo siamo ritrovati alle spalle, e da un po' di tempo che non ci vedevamo e siamo felicissimi di avere Urli Vittino di gioia. Fatto una piccola sorpresa. Che sono bello. Riaffiorato bello, come una vecchia canzone italiana. Insomma, a grande, grandissima richiesta di Tuco e compari, porto il grande Lorenzo Giovanni Arbore. Oh, allora, è vero, l'avevo chiesto. Ragazzi, la vita di Arbore è veramente una cosa lunga e complessa e piena di eventi. È stato un personaggio che ha fatto una quantità, ma una quantità di programmi, trasmissioni televisive, collaborazioni, dischi, film, libri. Tutto. C'è una cosa veramente lunga da raccontare. Estremante. Oggi arriviamo fino a un certo punto, cioè ci mettiamo un paletto. Sì. Diciamo che più che altro è per capire questo complessissimo fenomeno di Renzo Arbore, che è stato, okay, veramente fondamentale nella musica italiana. Iniziamo. Dai, è di Foggia. Sono interessatissimo. È di Foggia. Lorenzo Giovanni Arbore è di Foggia. È già un jazzista da ragazzo, molto giovane. Si iscrive a giurisprudenza a Napoli, mentre fa l'università intanto collabora come clarinettista in un gruppo di Foggia e anche in una band, con una band di Nocera, comunque sempre a fare jazz pugliese, diciamo, proto jazz pugliese. Si interessa di musica leggera e jazz, viene scoperto, conosce questo suo caro amico Gianni Boncompagni, che qualcosa vi dovrebbe dire, sì, sì, sì, puntata. Ce lo ricordiamo. Grazie così. Ce lo ricordiamo così, è quello che ha inventato Domenica Inn, per dire, allora, regista, inventore di Domenica Inn, quello che ha inventato Pronto Raffaella, che è il programma che lanciò Raffaella Carrà come soubrette, quello che ha inventato Non è la Rai, con Ambra Angiolini e tutta quella scuolo, serie di ragazzine, sì, ragazzette. Sì, lo solo di sì, pedopornografia spacciata per programma di intrattenimento. Insomma, con Gianni Boncompagni fondano uno dei programmi radiofonici più importanti della storia della radio italiana, e cioè Bandiera Gialla, nel 1965. Allora, perché si chiama Bandiera Gialla questa, esatto, cosa? Il nome lo prende, a parte che dalla canzone Tu vedrai bandiera gialla. Su, dai. Non conosco. E la gioventù è bella. Sì, sì, e lei dovrei. Oh, famosa. Dovresti, cazzo. A parte quella canzone, il nome fu inventato da Luciano Rispoli. Luciano Rispoli, all'epoca dirigente Rai, il quale diede questo nome perché la bandiera gialla è il segnale della Marina per segnalare la quarantena, l'epidemia. Ah, buono. Perché la quarantena, l'epidemia? Perché si mettevano in quarantena le canzoni che passava il programma, che passava soprattutto beat, rock, il twist, la musica dall'America e tutti quei giovani cantautori che stavano emergendo negli anni 60 in Italia, ma che non venivano passati dai programmi della Rai, che erano fin troppo altezzosi, diciamo. Per capire a che livello era la Rai al tempo, okay, tra gli anni 50 e gli anni 60, la Rai, la radio soprattutto, era riuscita a tenere il passo con la televisione, perché era stato inventato il transistor, che era la radiolina, mm-hmm, tu te la potevi portatile portare in giro. Nell'immaginario anni 60 c'è sempre la ragazza è in vero bikini con la radiolina in spiaggia. Anche sulla Vespa. Anche mio nonno andava a giro con la radiolina, non solo, e soprattutto alla fine anche degli anni 50. Mio nonno la radiolina. Ah, certo, certo, a sentirsi la partita della nazionale. Scherzi. E poi dalla fine degli anni 50 la radio era passata in filo diffusione con la rete telefonica, quindi arrivava dappertutto, la radio si ascoltava sempre e dappertutto. E il problema è che la Rai al tempo aveva i tre programmi della Rai, Rai 1, Rai 2 e Rai 3. All'inizio degli anni 60 decide di specializzare quei singoli programmi. Allora Rai 1 fa l'informazione, Rai 2 la prosa, la musica, il varietà, e Rai 3 il culturale. Quindi, però erano tutti programmi molto molto pedanti, diciamo, per persone adulte, diciamo. Certo. E negli anni 60 escono fuori i ragazzi, le rivolte giovanili, esce fuori la gente che si vuole divertire. E quindi Bandiera Gialla fa questo, parla solamente di musica, sì, e mette alla briglia, come si dice, no, insomma, si mette al centro di, sì, di un'arena i vari cantanti emergenti della musica italiana. Con Bandiera Gialla viene scoperto Battisti. Lo stesso buona. Arbore è stato il primo a dire a Battisti, il primo insieme a Gianni Boncompagni, a dirgli: Lucio, ma tu che scrivi le canzoni per i Dick Dick, che scrivi le canzoni per l'Equipe 84, perché non te li metti a cantare tu? E lui disse: no, ma c'ha la voce brutta. E loro gli fecero: dai, fallo, gli mettono in mano la chitarra. Battisti va in televisione con loro al programma che fecero subito dopo, praticamente in contemporanea con quello in TV, che era Speciale TV. La cosa assurda è che come erano organizzati questi programmi, che facevano? Mettevano il cantante al centro e tutto il pubblico interveniva e partecipava, alzava la mano tutti i ragazzi e dicevano: scusa Renzo, posso parlare io? Lucio, secondo me le tue canzoni manifestano un leggero pensiero di destra, vorrei capire cosa ne pensi. Era tutto così. Era molto figo, molto figo. E fu il primo a portare in TV Vasco Rossi, a portare Lucio Battisti, tra i primi a portare Mina e a far venire Celentano. Era proprio un programma di grande rilancio culturale al tempo, giovanile, certo, per dirla così. Dopo quel programma esce fuori Speciale per voi, esce fuori Alto Gradimento, altro programma incredibile, certo, famosissimo. In cui loro hanno tutto questo genere di comicità matta, no sense, piena di tormentoni, di risatine. Nino Frassica si affaccia in questo momento, perché io sono un grande fan questo, anche di Nino Frassica, subito devo dopo questo momento, negli anni 80 è Radio Confessione, fa bene. Adesso è un po' triste Nino Frassica, però dai, ti vogliamo invece, bene. Guarda, il programmone, lui faceva un altro programma alla radio fino a poi sulla Rai, mi spezzava, era totalmente senza senso. Lui è matto come un cavallo. Senza senso, sì, e sì, quindi è la mia comicità. Sì, sì, anche io adoro, infatti. Ma Renzo Arbore e Nino Frassica nascono insieme, no? Ah. Cioè, nel senso, Nino Frassica viene scoperto da Arbore e portato nel vero grande programma. Però ci arriviamo fra poco. Scusa, perché scusa. Negli anni 80, cioè alla fine degli anni 70, in televisione Renzo c'è il suo primo grande programma, che è L'altra domenica, in risposta a Domenica In. Questo per capire come pensava i programmi. Erano proprio programmi parodia. Cioè, Domenica In è il programmone, grande contenitore di star di seconda mano, certo, che sì, va in giro di domenica. Lui fa la stessa cosa, però in chiave parodica, con tutta una serie di scemi che fanno stronzate, imitazioni, personaggi comici. Tra questi, chi scopre e chi lancia? Vediamo. Roberto Benigni. Roberto, vero. Eh sì, Andy Luotto e tanti altri tra questi qui, appunto Nino Frassica maggiore, che poi insieme faranno una serie di programmi fino all'85, tra cui, questo lo volevo dire, ho scoperto, ha fatto questo programma e si chiama Tagli, Ritagli e Frattagli. Ci hanno rubato l'idea o l'abbiamo rubata? Forse dovremmo l'abbiamo chiedere rubata noi. Loro hanno rubato a Mario. Chiederemo a Mario. Bene, nell'85 fa il grande programma, uno dei più importanti della televisione italiana, Quelli della Notte. Va in onda su Rai 2, va in onda alle 11:10, quindi in terza serata, in seconda serata, scusatemi. Quelli della Notte, ed è la parodia del salotto televisivo, del salotto dove ci sono gli opinionisti. Ok. Cioè, è sempre giocare a rilancio contro quella cosa lì. Con tra l'altro grandissimi musicisti, c'ha Sal Genovese, Gegé, Telesforo, sì, ciao, Telesforo si chiama, musicista incredibile che sentiremo adesso nella canzone che andiamo ad ascoltare. Dopo questo programma, io ve l'ho detto, è una lista infinita, sì, e siamo ancora all'inizio della solo sua carriera, all'inizio. Dopo questo programma arriva il programma più divertente a mio parere, e il programma si chiama Indietro Tutta, è un programma dell'87, così come Quelli della Notte, che era stato un successo clamoroso, clamoroso in Italia. Indietro Tutta è allo stesso tempo parodico, però è parodico nell'87. E cioè, che cosa prende in giro nell'87? Quali sono i programmi che vanno in televisione? Tutte quelle cose orrende, tipo Drive-In, Colpo Grosso, Cin Cin Cin Cin, ricoprimi di baci, le tette con le stelline sopra, sì, i campanellini. Sì, sì. Insomma, Renzo Arbore che fa? Fa la stessa cosa, quindi programma incredibilmente grottesco, però a 3000, sono tutti quanti vestiti con questi vestiti iper barocchi, con super i fronzoli colorati, super colorati, sì, sì. Tutto quanto l'allestimento è una mega nave dei pirati, piena di brasiliane, personaggi strani, che ma no, ti giuro, una cosa incredibile, mette un finto spot, che è lo sponsor della trasmissione, che è lo sponsor del Cacao Meravigliao. mette le ragazze coccodè, che sono, che è questo balletto di tipe vestite da galline, che prendevano in giro quelle che poi sarebbero state le veline, che ai tempi erano le ragazze fast food di drive-in, per dire, c'erano sempre questo stuolo di femmine. Poi, cosa assurda, come era gestito proprio il programma, il presentatore, che era Nino Frassica, era un incompetente messo lì, che non sapeva cosa doveva fare, e Arbore era il regista della trasmissione che faceva la regia video dal programma in diretta. Cioè lui al centro della, della scenografia stava lì con due schermi e faceva, faceva la regia del, e intanto diceva al presentatore: ma che fa? Che parla con noi? Parli col pubblico, presenti il pezzo, faccia questa cosa. Così, era tutto fatto così. Che il presentatore era Nino Frassica. E il presentatore era Nino Frassica, che spesso non sapeva eventi, le cose, picchiava gli ospiti. era una cosa incredibile. Ed era tutto appunto meta... mediatico, insomma, era meta televisivo, no? Tanto che la cosa più bella sono le sigle. La prima, la sigla di apertura e la sigla di chiusura, sono tutte e due, parlano entrambe di televisione. Noi adesso ci sentiamo la sigla di apertura, che è bellissima. Si chiama Sì, la vita è tutta un quiz. E capite quanto sti programmi, che sembrano delle stronzate perché sono programmi parodici molto leggeri, molto fracassoni. Così molto grotteschi, in realtà c'hanno dietro un livello di satira e di parodia a quel tempo culturale della televisione che andava in onda, bella forte, bella tosta, dicevano le cose in maniera seria, però tutti molto faceti con questo stuolo. Ah, tra l'altro tutti i programmi che abbiamo detto finora, da Bandiera Gialla fino a questo, hanno il pubblico in sala, sì, in sala, che parla, che sono sempre ragazzi, sempre ragazzi. Insomma, sentiamoci Sì, la vita è tutta un quiz, che è la sigla di apertura di Indietro Tutta! Sì, la vita è tutta un quiz. Oh, me la ricordo questa. Giochiamo, la ricordo. Giochiamo, perché noi non ci arrendiamo. Non è rinato. Non è rinato. Sì, la vita è tutto qui. Sintonimi, quante emozioni, perché con queste ci nacco i milioni. E viva le televisioni. Aspetta e spera, che puoi sapere, teniamo alta la nostra bandiera, così compatti e sempre lanceremo, per tante tante lo che fai. Italiana, c'è una luce blu, e in ogni casa che brilla una TV, e tutti intorno seduti a guardare, davanti a questo nuovo focolare, il padre e il figlio dice: senti un po', solo un consiglio è quello che ti do, tu nella vita comandi fino a quando hai stretto in mano il tuo telecomando. Sì, la vita è tutto qui, e noi sogniamo, ma ti sfidiamo, ecco qui che risolviamo, i problemi che ci abbiamo. Sì, la vita è tutto qui, grandi occasioni, grandi emozioni, perché con qui che ci danno i migliori. Insomma, questo popolo di concorrenti. E era l'epoca delle lunghissime sigle. Cioè, cosa c'è ora che potremmo paragonare a questa? Sì, ma con queste sigle iniziali, con tutti i balletti ovunque. No, adesso c'è solo lo stacchetto musicale e poi entra il, esatto, il bel imbusto di turno. Grande sigle. No, ma queste sigle cominciavano con... Metti una sigla così lunga, ti scappano gli spettatori dopo. Ma questa sigla, cioè, ragazzi, questa ora, sigla, cioè, è la cosa più figa del programma, certo. Perché mica partiva la canzone e si sentiva tutto lo studio cantava il pezzo con una sfilata di brasiliane, nani, trapezisti, gente matta, coriandoli e stelle filanti, questi Fellini entravano style, e cantavano la canzone tutti felici con Lorenzo Arbore vestito da capitano di nave che dirigeva dall'alto come un idiota, cioè. Alziamo un pochino qui sotto quello che stiamo sentendo. Questa era la canzone con cui finiva la trasmissione e si chiama Ci rifletto. Senti, e allora amore, no. Praticamente la storia che dice la canzone è questo: la moglie che ha appena finito di vedere Indietro tutta va a dormire e dice al marito: vieni a dormire con me. Però che succede? Indietro tutta va in onda prima del TG. E il marito vuole rimanere a vedere il TG. Sentiamo un secondo. Alziamo. Perché altrimenti mi addormento senza te. Ma sì, vengo dopo il TG. Vengo dopo il TG. Che successe? Che il programma doveva andare in onda alle 11.10, così come quelli della notte. Renzo Arbore si batté come un leone per far sì che andasse in onda prima del TG, cioè alle 11, alle 10.30. Quindi loro avevano il TG serale, avevano montato tutta sta strozzata per poter rendere più divertente questa cosa, insomma. Un'altra cosa molto divertente di Indietro tutta, pensate alla potenza delle risate. A me questa cosa mi fa crepare, perché cioè, nasce come una parodia, no? Tutto il programma nella sua impostazione, in tutto. Il simbolo è Cacao Meravigliao, no? Cioè la grande pubblicità che c'è durante la canzone, che è come quella cosa che ha usato pure Maccio Capatonda in Mario, se l'avete visto, no, che c'ha gli sponsor durante il telegiornale, una presa per il culo alla televisione venduta, che dà alle pubblicità lo spazio dentro i programmi di informazione, i programmi normali. Cioè loro pubblicizzano il Cacao Meravigliao in mille modi, ci sono mille scritte, c'è la canzone, mille promozioni. Tanta gente, ma tanta gente andò a chiedere nei supermercati, nelle drogherie, il cacao meravigliao. Nelle tre versioni in cui c'era, cioè il delicassao, spregiudicao, il depressao, che sono le tre... Sì, sono i tre stati d'animo con cui prendere il caffè, spregiudicao, depressao e delicassao. E ci fu addirittura una causa giudiziaria tra la Rai e un imprenditore che aveva reclamato il copyright sul suo Cacao Meravigliao. Cioè, rendetevi conto che follia. Questi per fare le stronzate hanno creato la realtà, capito? Praticamente. Certo. Va bene. L'ultimo evento che raccontiamo di Renzo Arbore è questo. Capita nell'86. Boncompagni è ancora alla Rai. Boncompagni, quando faranno nella Rai, è nel 90, negli anni 90, insomma, alla fine degli anni 90, in cui era passato con Fininvest. Fino agli anni 90 Boncompagni e Rai. Boncompagni, direttore artistico di Sanremo per tanti anni. Che cosa fa? Chiama Renzo Arbore e gli dice: senti, abbiamo troppi cantanti noiosi, perché non vieni e porti una canzone bella, scrivi una canzone divertente? Lui fa: va bene, te la scrivo, c'ho sta canzone caruccia che avevo scritto da un po' di tempo, si chiama Il clarinetto, dobbiamo trovare a qualcuno a cui farla cantare, magari Nino Frassica, facciamo venire lui. Boncompagni fa: no, ma che Nino Frassica, possiamo mettere Nino Frassica? Scusa, vienici tu. Lui fa: ma no, c'ho la ega che moscia, non reggo il palco, non sono un cantante. Disse: no, dai, su, tutti ti conoscono, tutti ti amano, personaggio televisivo, vai a Sanremo. Allora gli fa: va bene, però non ci vado da solo, ci va con un gruppo che viene annunciato quando salgono sul palco come i tre amici e il cognato. Sono quelli che accompagnano Renzo Arbore con i tre amici e il cognato, che sono bellissimo, che sono GG Telesforo, quello di cui dicevamo prima, Nando Murolo, altre due personalità, e cantano sta canzone, Il clarinetto. Io vi dico queste cose perché ho visto un'intervista, tra l'altro qui a Firenze era venuto Arbore al Teatro dell'Opera e raccontava questo aneddoto in cui lui, appunto, quando Boncompagni gli disse: no, vieni a cantare tu, lui gli fece sentire il pezzo, e il pezzo è un pezzo fantastico, veramente fantastico, perché è un costante controsenso, un'ambiguità sull'ambiguità. Lui dice: metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto. Metti che lei capisce tutta un'altra cosa, che ti piace il clarinetto. No, cioè, che suoni bene il clarinetto, che lo sai usare, e ti fa subito l'occhietto. metti che tu sei un artista puro e questa cosa ti fa un, non ti fa un bel effetto, ti offendi perché dici cazzo, io sono un artista, sono il clarinetto, questo invece pensa che voglio fa le cose. Sì. E il clarinetto si butta un po' giù. Giusto. Cioè nel senso lui sta dicendo, il clarinetto non è mica un'allusione sessuale, però il clarinetto si butta un po' giù. Poi la seconda parte della canzone dice: il clarinetto è uno strumento particolare che ha bisogno di accompagnamento, e fa tutta una serie di allusioni al clarinetto che cerca la chitarrina per fare filù filù filù filà. Okay. Cioè nonostante dica da subito, guardate che non è assolutamente un'allusione sessuale, anzi quando ce la fanno ci offendiamo noi clarinettisti, per la fine una... E lui mentre fa questa canzone a buon compagni accompagna quando dice filu filu filu filà con la mano, col gestino dello spingere, dello spingere, sì. E fu censurato, gli dissero guarda Renzo no, questa cosa no, lo esageriamo, andiamola, portiamola così, adesso se la sentiamo e ci facciamo... Due risate appunto al Sanremo dell'86, Renzo Arbore con il clarinetto. Metti che ti presenti a una ragazza e dici suono bene il clarinetto. Metti che lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto. Metti che sei un artista puro e questa cosa non fa certo un bel effetto. Il clarinetto, quello che fa filu filu filu fila. Metti che lei non è un artista e con la musica non prova alcun diletto. Il clarinetto si butta un po' giù. Non c'è emozione né soddisfazione a suonar da soli il clarinetto. È uno strumento un po' particolare che ha bisogno di accompagnamento. Ma dove sta una chitarrina per suonare insieme con il clarinetto jazz? Per fare qualche pezzo, per fare un po' filu filu filu fila. La cerco come la titina questa bella chitarrina per far qualche swing mentre il clarinetto spinge, così nasce un bel blues. Canzoncina un po' svettina in do. E allora come fo per fare un po' filu filu filu fila? La cerco come la titina questa bella chitarrina per far qualche swing mentre il clarinetto un bel blues. insomma, grande Renzone, guarda quanto ti vogliamo bene fino a un certo punto, perché il personaggio di Renzo Arbore sì, è anche pieno di ombre, le racconteremo anche nelle prossime, la prossima volta che faccio la rubrica con voi, magari non la prossima settimana ma quella dopo, o si vedrà Natale, dopo Natale, quando pre-Natale sarà. Quando sarà? Però sera, sì, sera. Si illumineranno tante cose. Posso lasciarvi qualche pettegolezzo sulla vita amorosa di Renzo Arbore? Non so se qualcuno di voi appassionato di Battisti conosce la canzone che si chiama Innocenti Evasioni. Io no, personalmente. Allora io, cazzo, dobbiamo rimediarci, uno di questo bisogna fare pure il pezzo su Battisti. Certo, è una canzone pezzo meravigliosa scritta da Mogol, in cui c'è questo tipo che aspetta una donna e prepara tutta l'atmosfera chill anni 80 dentro casa sua, il caminetto, la musichetta, il vino buono, per aspettare questa donna, questo incontro amoroso, probabilmente adulterino. E che succede? Entra alla porta la moglie invece che l'amante, e lui accoglie la moglie e fa: ah, cara, tutto. Sì, no, ma guarda, e cerca di giustificare la situazione. A quanto pare questa canzone è tratta da una storia vera che riguarda Renzo Arbore. Davvero, Battisti aveva detto questa cosa, per Renzo Arbore l'ha scritta in un suo libro autobiografico, sarebbe quanto pare successo con questa tale Vanna Brosio, è una delle sue prime storie. Fatto sta che Renzo Arbore è stato scapolone da sempre, da giovanissimo è stato sempre scapolone, un po' di storielle, quella è stato con Gabriella Ferri, cantante top romana, eccetera, con Mariangela Melato, tantissimo tempo, altra tipa, attriciona della Madonna, personaggio super importante, è stato pure con Mara Venier. Beh, ve l'aspettavate questa? Con Mara Venier. Mamma mia. Ebbene, con questa vi lasciamo, ragazzi, è stato proprio bello. È stato bello, bellissimo, bello. Io ti ringrazio davvero per aver... Un bacione. Viva fuoco alle pompe, quasi me lo dimenticavo, cazzo. Prendiamo in giro sempre. È vero. E viva fuoco alle polveri e viva Radio Wombat. Grazie. Tanti baci, dai. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Nulla. Il silenzio. Meraviglia. E questa piccola nota di depressione. Ti è piaciuta questa sigla? Da matti, sei innamorato. Innamorato. Grazie. Torna Pizzo. Presto. Certo, sarà, succederà. Tocca a noi. Stavo per risbagliare. Questa mi già. Qui l'ho aspettato. Bene. Che sorpresa, che bello, che gioia, bello, che calore. Mi ha scaldato la puntata. Sì, anche è stata bella. È vero. Il cuore. Il corazon. E adesso? Adesso si va dritto come... Si va di rubrica. Sì, si va di rubrica, ormai... Andiamo di sigla. Andiamo di sigla così? No. Vai. Sei tu che comandi. Guidaci. Nozioni inutili. Ed eccoci qua. Siamo alla terza puntata della seconda stagione. Sempre perché io tua, seguo il mio calendario. Come potremmo chiamare? Calendario? Il calendario che non ti aspetti. È il calendario che aspettiamo. In questa puntata parliamo per l'appunto di musica, visto che riallacciamo alla precedente rubrica e torniamo a parlare di musica, perché se vi ricordate nella seconda puntata di Nozioni Inutili abbiamo parlato del magnetofono certo. Del bellissimo brano di Claire de Lune, incredibile. Qualità audio e quindi abbiamo parlato del primo suono registrato, ma adesso parliamo della prima canzone mai scritta, o meglio, della melodia più antica che ci è pervenuta tramite l'archeologia, e quindi parliamo di archeologia. Ma non è che è proprio inutile come nozione, cioè buona in realtà. È una nozione interessante, se non altro. Sul santo. E questa melodia è stata scoperta negli anni 50 da degli scavi archeologici avvenuti a Ras Shamra in Siria. Tranquillo. Che era nell'antichità la città di Ugarit, era una città urrita e nel Palazzo Reale è stato scoperto l'inno Urrita numero 6, come è stato classificato dall'archeologo, che poi è stato successivamente rinominato inno Urrita Annikkal, che era la dea dei frutteti. Okay. Che era, diciamo, la dea protettrice della città. E questo inno era un inno scritto per uno strumento che si chiama Samum. Sì. E che cacchio è? Che tutti voi avrete in casa, no? Giustamente. Cioè, sì, io ce l'ho appeso proprio. Pare che fosse un'arpa, o più probabilmente molto simile a una lira. Uno strumento a 9 corde. E all'interno di questa tavoletta in Creta c'era, oltre alla, diciamo, quella che poi alla notazione, ma insomma dopo vi spiego meglio come funzionava la cosa, c'era anche le istruzioni su come accordare questo strumento. Ah, quindi era proprio una guida pratica, c'era quasi una tab di quelle. Sì, sì. Altro che Ikea, insomma. E potete trovare queste tavole al Museo Nazionale di Damasco. Ah. Quindi se andate in Siria, andate a Damasco. Non so se ora c'è... Sì, a Damasco mi sa che si può andare. Magari per Natale ci facciamo tutto in viaggetto a Damasco. Magari si abbia da freddo. E in realtà nessuno sa bene esattamente come fosse questa melodia. E qui arriviamo a un punto. Cioè, perché non ci sono scritte le note? Perché le note, per come le conosciamo noi, sono state, tra virgolette, inventate da Pitagora e dalla setta di pitagorici, certo, che si occupavano molto di musica. Ma ci sono tutta una serie di parole che pare indichino delle pause, degli accenti, quindi diciamo è molto a libera interpretazione. Ci sono varie interpretazioni. Una di queste interpretazioni, che tra poco andremo a sentire, è stata suonata da varie persone, e quella che andremo a sentire è stata fatta da questo musicista ebreo-americano che si chiama Michael Levy, che si occupa proprio di musica antica, musica sacra antica, e quindi reinterpreta a modo suo queste melodie. E quindi direi, dalla regia, che si può cominciare a mandare questo pezzo. Ci sentiamo un estratto di un minuto circa. Ah, questo no, questo tornerà, questo arriverà dopo. È palesemente musica siriana, certo. Ecco, questo qua è un pezzo, poi dopo ne parleremo di questo. Va bene, pezzo vado con la The Oldest Known Melody. Sì, questo è l'inno Urrita numero 6 alla Dea Annikkal. Questo è il musicista Michael Levy, che interpreta una delle possibili trascrizioni di questo inno Urrita Annikkal, la dea Annikkal, dea dei frutteti, usata e della poi, fertilità e dell'abbondanza. Usata poi per la colonna sonora di Age of Empires, se non sbaglio. Possibile, sì. Ci ho pensato. È un qualche cosa che si potrebbe sentire lì. Come vedete, questa era la vera musica. Ah, che tra l'altro questa melodia risale al 1400 a.C. Però quelli erano i veri tempi. Poi già quando c'era la biblioteca d'Alessandria, sì, si è cominciato sì, esatto. Poi tutti questi ragazzini, insomma, si sono svenduti. Bene. E bene, ora abbiamo sentito poi quell'altro pezzo in sottofondo, molto più rumoroso, sì, e molto più contemporaneo. Ci azzecchi poco effettivamente con questo qui, forse vediamo. Fino a un certo punto, l'ho scelto perché è un pezzo di un gruppo israeliano di etnia mista, in parte armeno, in parte assiro, che è nato come una one man band, che sono i Melekesh, che sono un gruppo che si specializza, cioè che fa musica metal, black metal per la precisione, con una matrice molto tecnica, che però ha queste influenze mesopotamiche nella musica, e quindi fanno anche alcune rieseguono chiaramente udibili, rieseguono anche dei brani all'interno dei loro dischi. Troverete anche dei brani acustici suonati con questi strumenti che diciamo ripropongano le sonorità proprio antiche. Forte. E diciamo il nome, scusami, Melekesh. Melekesh, ok. Ho avuto modo anche di vederli dal vivo, quindi se vi capitasse. Dove? Erano al al Siddhartha a Prato. Erano di spalla al ai Samael, che sono un gruppo svedese che vi consiglio anche loro, molto interessanti. Quindi se, appunto, se vi capitasse di andare a vedere i Melekesh dal vivo, ve li consiglio, sono veramente un bel gruppo. E questa è ce la sentiamo. E questa è una canzone dei Melekesh, ora non mi ricordo neanche il titolo. C'è un attimo di vuoto. Loro probabilmente. Deluge of Vai, vai, vai, vai. Deluge of Delusional. Vai. Deluge of Delusional Dreams, esatto, vai. Ecco. E dall'album Emissaries, che è il loro terzo disco. Vabbè, ce la sentiamo. Ce la sentiamo. Yeah. We'll be right back. E rieccoci qua, adesso abbiamo assordato i nostri ascoltatori con la doppia cassa. Turbati come questi, non mai. Turbati. Per la versione integrale cercatevela e ascoltatela. Assolutamente, potete trovare, esiste internet, esistono i negozi di dischi, e soprattutto dell'usato. E quindi niente, siamo passati da Arbore agli arboreti, ai frutteti, alla musica antica. Vedi, ormai siamo diventati tutti professionisti. E che dire, quindi vi consiglio un po' di fare ricerche al riguardo. Tra l'altro, i Sumeri, a riguardo le Sumeri, dice, le popolazioni mesopotamiche, okay, certo, erano molto appassionati di astronomia, no? Tra l'altro c'è anche una piccola notizia astronomica che mi sentivo di lanciare. Già, che sei qua. È stato scoperto dalla NASA tramite il radiotelescopio Kepler e il deep learning di Google, quindi il sistema di intelligenza artificiale che analizza i big data, hanno scoperto nel sistema Kepler 90i, un sistema solare, un ottavo pianeta. E quindi adesso abbiamo un altro sistema solare con 8 pianeti oltre al nostro. Era l'annuncione, doveva fare la NASA. Era l'annuncione della NASA del 14 dicembre fa, alle 1 in orario est Stati Uniti, e quindi in questo caso era alle 7 del pomeriggio dell'ora nostra, hanno fatto questo mega annuncio. Ovviamente sì, vabbè, c'era chi diceva che avrebbero rivelato gli alieni contatti, certo, sarebbe stato il giorno della rivelazione di tutto. Sì, tipo, l'avevano, cioè diciamo, per come l'avevano messa loro sembrava quasi che, però ovviamente dovevano farsi un po' di pubblicità, dovevano trovare in modo di attrarre attenzioni e fare acchiappa click. Però in realtà, tra l'altro, sul discorso UFO, non so se avete letto la notizia che è finita anche sui telegiornali nazionali, che il Pentagono ha rivelato un programma di studio degli UFO, proprio è venuta fuori con dei fondi neri, che non, il programma che non è neanche passato al congresso, ma c'è stata questa notizia che ha fatto un po' il giro dei giornali. Ma per queste ed altre notizie di fantascienza a breve ci saranno novità. Esatto, quindi direi. Infatti Kepler 90i sta per indizi su future trasmissioni di Radio Wombat. Ok, io sono tremendamente confuso. Cioè abbiamo una sigla di chiusura. Da tutta questa faccenda mi avevi rintronato questa roba alieni, UR, magari sugli alieni, Mesopotamia, metal, non ci capisco un cazzo. Storicamente, scusate, i Sumeri, alieni e... siamo lì, cioè, sì sì, è proprio presa, okay. Perché ci sono proprio delle effigie, vabbè, non ne parliamo, lasciamo stare, sì, sì. Anche lì se ci sarà qualcosa a parte forse. Ma c'è una sigla di chiusura oppure devo continuare, sì, certo, a parlare? Vai allora. Nozioni inutili, finisce qua. Bene, ciao. Questa era la lunga vita ai Wombati, grazie sempre, a tutti. Sempre, sempre, ciao. Grazie, caro. Scusa. Sì, prego. No. Nozioni inutili. Nozioni inutili. Nozioni inutili. Nozioni inutili. Nozioni inutili. Oh, ok. Ah, che bello. Bene. Benissimo, direi. Continuiamo qua. Abbiamo, sì, un'altra sorpresona. Ma qui oggi sono il ritorno di Ramba. Io non farò troppi commenti perché ho paura poi di turbare il personaggio che accade. Ma perché voi non lo vedete, ma è molto concentrato. Sta preparando, cammina su e giù per la regia. No, in realtà è piantato importante. Qui accanto a me. Siamo molto contenti di riaverlo qua con noi. Ma si morde le unghie freneticamente. Beh, ragazzi, proprio la fa pagare, stai attenti, io iniziamo a portargli rispetto. Non vi diciamo niente? No, manda la sigla così vi bagnate tutti. E ora... E ora... legge tasso. E l'han buttato giù. L'ultima volta che ho parlato di Pino... è stato molto tempo fa. Era un momento molto diverso da questo, mi ricordo il periodo. L'Italia aveva appena vinto i mondiali di calcio nel 1982. Ero in Nicaragua, verso il 19 di luglio. Avevano fatto un battaglione di riserva, formato dai ragazzi dei quartieri. Andava alla frontiera, nella foresta, a difendere quel paese dai mercenari pagati dagli americani. E nel mio spagnolo terribile parlai a questi ragazzi dei compagni italiani che lottavano. Loro non capivano. Ma non è un paese democratico l'Italia, non è un paese libero. Allora gli ho spiegato un po' di cose. Ma questo non è importante, l'importante è che c'è stasera lo stesso spirito che c'era là. Arrogante, come il potere che combatte, uno spirito speciale che ci riunisce. Quando il potere diventa superbo, presuntuoso. Là il potere era diverso. Lì erano gli americani. Qua è il nostro potere, quello contro cui combattiamo. C'è lo stesso spirito, perché loro sapevano e noi sappiamo di avere ragione. Non abbiamo il 99% di ragione, abbiamo il 100%. Chiediamo giustizia per un compagno assassinato. Mi si dice che io sono uno dei testimoni di quella sera, ma io vorrei che da stasera in poi ci fossero tanti testimoni. Io cercherò di portare via con me in quella notte tutti voi, cercherò di farvi capire quello che è successo, di farvelo vivere, di farvelo sentire. E vorrei che diceste: anch'io c'ero, anch'io sono testimone. Io ho sentito con le mie orecchie, ho capito quello che è successo. Voi sapete il preambolo, la strage di Piazza Fontana. Subito dopo hanno fatto una grandissima retata solamente con gli anarchici. Sembrava ci fossero solo gli anarchici, potenziali bombaroli. Hanno riempito la questura di Milano di tantissimi anarchici. E di tanto in tanto li interrogavano, li mandavano a casa, qualcuno lo mandavano a casa senza interrogarlo. Arriva la sera del 15 dicembre e siamo rimasti solo io e Pino Pinelli. Gli altri erano tutti andati a casa. Vediamo insieme com'era il posto. L'ufficio politico della questura di Milano era un appartamento. C'era una porta d'ingresso, c'era un lungo corridoio. Su questo corridoio, da un solo lato, c'erano varie stanze. Io ero in una stanza che era più vicino alla porta d'ingresso rispetto alla stanza vicina dove poi sarebbe stato interrogato Pino. È sera tardi, non c'è riscaldamento, non c'è assolutamente nessuno. C'è un silenzio agghiacciante. Sono seduto al tavolo con Pino, lui è tranquillissimo, serenissimo. Lui è un compagno più grande di me e mi incoraggiava. Io dicevo: siamo qui da diverso tempo. Lui diceva: ma no, siamo rimasti solo noi, adesso tra un attimo ci chiamano e ci lasciano. Ce ne andiamo a casa e finisce questa storia. Era tranquillo, sereno, parlava così. Verso le 10:30 vengono a portarlo per interrogarlo a Pino. Era il commissario Calabresi. E altri due. Io resto solo, assolutamente solo nella stanza. Davanti a me non c'è una finestra o una porta, ho una parete completamente aperta, con una grande apertura, con quattro finestre, molto, molto più alte, le finestre su un corridoio completamente vuoto davanti a me. Da questo corridoio passano portando Pino, Calabresi e gli altri, vanno nella stanza del vicino. Chi dice che Calabresi non era in quella stanza sta mentendo nel più spudorato dei modi. Calabrese è entrato in quella stanza, è entrato insieme agli altri, nessuno più è uscito. Io ve l'assicuro, era notte fonda, c'era un silenzio incredibile. Qualunque passo, qualunque rumore rimbombava, era impossibile sbagliarsi. Lui era in quella stanza. Dopo circa un'ora che lui era in quella stanza, che c'era Pino in quella stanza, che non avevo sentito nulla, quindi saranno state le 11:30, grosso modo. In quella stanza succede qualcosa che io ho sempre descritto nel modo più oggettivo, più serio, scrupoloso. Dei rumori, un trambusto, come una rissa, come se si rovesciassero dei mobili, delle sedie, delle voci concitate. Non ho sentito quello che hanno detto e non mi sono inventato quello che hanno detto. Non li ho sentiti, non l'ho detto. Ho detto, non ho mentito su una virgola. Non so se sia la più chiara verità, ma è l'assoluta verità. Qualcosa è successo in quella stanza. Dopo circa 20 minuti ho sentito un rumore. Io non voglio fare retorica, era un rumore sordo, muto, cupo, io non sapevo cosa fosse, non sapevo proprio neanche lontanamente, avevo immaginato che cosa fosse quel rumore. E subito, immediatamente, vengono due poliziotti, mi mettono con la faccia contro la parete e mi dicono: si è buttato! Allora realizzo che quel rumore era il corpo di Pino che cadeva, che moriva. Un rumore sordo, cupo, bruttissimo. E nessuno è uscito da quella stanza fino a quel momento, nessuno. Quando io ho detto queste cose, perché dopo mi hanno preso e mi hanno portato subito a San Vittore, perché era scaduto il tempo del fermo, il giorno dopo mi hanno fatto uscire, nessuno mi ha interrogato. Non ho mai saputo perché fossi rimasto là, fino a quell'ora di notte. Quando io ho detto queste cose, io non sapevo niente, che il commissario Calabresi aveva detto che lui non c'era in quella stanza, non lo potevo immaginare neanche sognare. Mi hanno detto: è uscito qualcuno? L'avvocato. No, sicuramente non è uscito nessuno. perché una volta che è entrato Pino, stavo in attenzione, perché dopo sarebbe toccato a me, volevo andare a casa, stavo attentissimo a quello che succedeva e ve lo posso giurare, non è uscito nessuno, erano ancora là dentro tutti, assolutamente tutti. In quel momento è successo questo, sicuramente, compagni. Non c'è dubbio su quello che è successo, la realtà è questa. Qualcuno ha fatto qualcosa a un compagno. Io non so se gliel'ha fatto apposta, se ha sbagliato la misura. E quindi non posso dirlo, non posso scaricare lo sdegno su questo, perché non lo so, ma qualcosa è successo. Qualcosa hanno fatto a un compagno. Poi è successa una cosa schifosa, orribile, indecente, che non ha parole. Hanno preso un compagno svenuto, incosciente, e per nascondere l'hanno buttato dalla finestra. Qualunque altra versione è falsa. Questo è esattamente quello che è successo là dentro. È la sola cosa che può spiegare quello che è successo. Hanno organizzato questi miserabili per nascondere il loro crimine, prendono e buttano un compagno inerme, lo buttano giù dalla finestra. È caduto sulla testa, non si è difeso, non era cosciente. Inerme, l'hanno buttato giù. E nel frattempo a Roma succedeva questo, e quel povero Pietro, me l'hanno detto, c'era anche la Pia, una compagna dolcissima e carinissima, che anche lei mi ha rubato un po' l'anima, come tutti i compagni. Lei in particolare, una compagna straordinaria, c'era anche lei quando Pietro mi diceva, ero là a Roma, mi avevano fermato e c'era il solito poliziotto e mi diceva, guarda Pietro, non ti preoccupa. All'improvviso a mezzanotte mi saltano addosso, mi mettono a faccia in giù, mi mettono le manette e mi dicono, sei tu l'assassino. 3 delitti sono successi quella sera. Prima hanno fatto del male a un compagno, poi l'hanno buttato giù per nascondere il primo crimine e hanno arrestato Valpreda per dare un senso al secondo crimine. Forse qualcuno di voi non si ricorda e altri non possono sapere, la prima persona della polizia di Milano, subito dopo la morte di Pino, ha detto «Si è buttato dalla finestra», gridando «Valpreda è colpevole, l'anarchia è finita». Hanno mentito tutti. Dal questore a tutti gli altri che erano nella stanza. Poi no, la versione è cambiata, i bugiardi hanno detto un'altra cosa, ma quale credibilità può avere gente che ha mentito subito quando poi dice un'altra cosa? Sicuramente nessuna. Dopo aver fatto questo, cosa è successo? Ci hanno anche preso in giro. Guardate a che punto si può arrivare, continuano a mentirci e a dirci una serie di cose che non sono assolutamente neanche lontanamente vere. Quello che ha detto il compagno Mauro è verissimo. È importante ristabilire la verità. Compagni, io non esprimo le opinioni. Le opinioni le lascio a voi. Io dirò i nomi degli assassini del compagno Pinelli. Uno per uno. E vi dico che sono degli assassini. Perché chi ammazza un essere innocente è un assassino. Se no poi le missioni di guerra imperialista diventano missioni di pace. Ognuno deve prendersi il nome che si merita. Panessa, Mainardi, Muccilli, Lograno, Calabresi, Caracuta. Siete tutti degli assassini. Noi vogliamo, continuiamo a volere, a pretendere giustizia per i nostri morti, per tutti, per Pinelli, per i ragazzi morti e anche per i morti di Piazza Fontana. Perché la strage è stata una strage di Stato. Intervento di Pasquale Valitutti nel corso dell'iniziativa Verità e Giustizia, svoltasi il 18 marzo 2004 e organizzata dal circolo anarchico Ponte della Ghisolfa e dal centro sociale Leoncavallo. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere, apre un po' la finestra, ad un tratto Pinelli cascò. Signor questore, io gliel'ho già detto, lo ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma giustizia, amor, libertà. Poche storie confessa Pinelli, il tuo amico Valpreda ha parlato, è l'autore del vile attentato, e il suo socio sappiamo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, è l'autore di questo misfatto, tra i padroni bisogna cercar. Siamo attenti, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo. Se tu insisti, apriam la finestra, quattro piani son duri da far. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere, apra un po' la finestra, ad un tratto Pinelli cascò. L'hanno ucciso perché era un compagno, non importa se era innocente. Era anarchico e questo ci basta, chi seguida il feroce questor. C'è una bara e 3000 compagni, stringevamo le nere bandiere. In quel giorno l'abbiamo giurato, non finisce di certo così. Calabresi e tu guida assassini, che un compagno ci avete ammazzato. L'anarchia non avete fermato, ed il popolo al fin vincerà. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere, apra un po' la finestra, ad un tratto Pinelli cascò. A letto Tasso. A letto Tasso. A letto Tasso. Una cosa del genere, secondo me. A letto Tasso. A letto Tasso. A letto. A letto Tasso. Ecco qua. Quanto tempo è? Non era un altro pezzo? No. Bello, bello, bello, che bello. Che bella. Che sì, bella lettura, bella del Tasso. Che bella e tremenda lettura. Bella e tremenda, sì, lettura. Infatti mi ha fatto venire in mente un film che ho visto ultimamente, una cosa molto spassosa, che si chiama propriamente Tre ipotesi sulla morte di Giuseppe Pinelli. Ok. Un film degli anni 60 fatto da Elio Petri, che è sto registone degli anni 70, uno romano molto legato ai movimenti studenteschi degli anni 70, molto vicino agli ambienti universitari, in cui nasce appunto questa cosa che infatti è stata ideata dal Comitato Cineasti contro la Repressione, okay, a cui fece parte pure Pasolini per un bel po'. Oh. Ed è figo, loro mettono in scena con questo cinema d'inchiesta le varie ipotesi che vengono fuori dalle dichiarazioni dei poliziotti che stavano lì in quella triste situazione. E guardatevelo, è molto simpatico. Quindi per trovarlo cosa dobbiamo digitare? Dovete digitare all'interno di un film che si chiama Documenti su Giuseppe Pinelli, ma il film in particolare si trova su YouTube, è ipotesi, scusate, Tre ipotesi sulla morte di Giuseppe Pinelli. Ok, cioè, buono. Così. Grazie. Io Elio Petri, Elio Petri. Eliuccio. Del 1970 proprio. No. Lilli, successe Lilli. Caldo. Caldo, caldo. Ok. Boom, con questa nota finale di basso. Sì. Oh yeah. Allora, andiamo, secondo me, così, un modo un po' inconsueto. Ah sì, andiamo a raccontare che cosa succede in settimana, sì, nella città, però perché di solito lo facciamo alla fine, ma noi non siamo alla fine. Perché abbiamo un'altra sorpresa. Abbiamo un'altra sorpresa. Bene. Gradita sorpresa. Però, quanto però, però, da, però, dove l'ho messa? Oh. Aspetta un attimo. Allora, rassegna eventi. Grazie. Sigla. Rassegna eventi. La sigla. Il regista fa il cazzo che vuole. Non ci guarda. Fa un grande. Ho capito, ce lo deve dire. Tempo. No, no, ma lui comanda. Noi dobbiamo stare dietro e nemmeno rompere il cazzo. Sì. Non ci siamo. Doveva essere eventi? Eh? Non doveva esserci la sigla. Vediamo. fai tutto a te. È fenomeno. Allora, andiamo a parlare quindi di cosa succede in settimana qui in città. Sì. Martedì 19. Partiamo da martedì 19. Perché okay, domani. Sì. Cioè domani, perché oggi è lunedì 18. E allora, Allora, allo spazio inchiostro. Allo spazio inchiostro, appunto, volevo dire, torniamo a parlare appunto dello spazio inchiostro, di tutto il processo, insomma, di quel percorso di diritto alla città che abbiamo affrontato anche qui a Fuoco alle Polveri, sì, nelle puntate passate, sì, direi al plurale perché ne abbiamo parlato in più puntate. Diverse volte. Quindi andatevi a cercare il podcast, mi raccomando, se ve le siete perse. Quell'ultima, oggi cos'è? 47, nella 45esima puntata. È venuta qua da noi Ornella De Zordo a parlarci anche dei temi che verranno affrontati domani. Esattamente, allo spazio inchiostro via Alfani 49, sì, dalle ore 18 alle ore 21, sì, turismo di massa e città, da Barcellona a Berlino, come si muove dalle ore 18. Bene. No, vi vedevo come basiti. No, ci sono dei momenti un po' di gelo, ma... dimmi. Sì, se ne volete sapere di più andatevi a risentire il bel podcast della puntata e i 50 minuti di intervistona. Sì, cazzi vostri, non vi diciamo niente adesso noi. Bene, quindi questo il quarto appuntamento appunto, sì, del ciclo La Fabbrica del, sì, Turismo. Sì, interverranno comunque, introduce Ornella De Zorro, interverranno il gruppo urbanistico che sta dietro Per un'altra città e Clash City Workers. E poi c'era anche un aperitivo per mangiare qualcosa. Evviva, evviva, attenzione, niente. Attenzione. Mercoledì 20 invece, passiamo, sì, a mercoledì, di ritorno dal Kurdistan, okay, dalle ore 21, allo spazio YAM. Sì, nello spazio... in via Baracca. Sì, okay, esattamente, in via Baracca. E, il Kurdistan, si parla del Kurdistan, Turchia, sì, Siria, saranno... e Iran, quindi sì, questo snodo... Fa ridere, vero? In questo momento degli insegnamenti fa ridere, non c'è pezzo, perché veramente secondo me abbiamo delle facce assurde mentre lo facciamo, di cercare di capire cosa sta succedendo nel mondo. No, in realtà appunto... Allora, sono c'è dei stata compagni, una delegazione, bene, esatto. Bravo. Vai, vai. No, no, ci sono dei compagni che sono stati in Kurdistan con la delegazione italiana di InfoOut e che tornano e raccontano ciò che hanno visto sia nel Rojava sia in altre, nel Kurdistan iracheno e in altre regioni dove sono stati. Quindi dalle 21 appunto c'è questa iniziativa, se vi interessa l'argomento potete andare a sentire che ci sono delle esperienze dirette su che riportano appunto informazioni da quei territori dove, ricordiamo, c'è una guerra tra tantissime fazioni, c'è un, casino, c'è proprio, un gran casino. Ci sono però i curdi che auto-organizzandosi fondamentalmente stanno combattendo sia contro l'ISIS sia contro le forze che lo finanziano. E quindi sentire chi direttamente ci riporta sia appunto delle battaglie, ma non soltanto, ma anche di un altro tipo di società che sta nascendo in quelle zone, insomma, interessante. È molto interessante, peraltro se non riuscite ad andare o comunque volete approfondire, su InfoOut c'è l'incredibile traversata che è appunto il reportage, diciamo, di tutto questo viaggio. Bene. Possiamo anche mettere il link che abbiamo a disposizione per andarci direttamente. Ottimo. Dopodiché 20 si avvicina purtroppo... No, purtroppo... si avvicina il Natale. c'è però invece la versione bella del Natale, cioè il Nataleone. Sì, è vero. 21, 22, 23, dobbiamo dirlo questo con uno spirito veramente tutto di emozione. Tutto di emozione. Sì, proprio deve essere. Cioè, 21, entusiasmo. Bravo, entusiasmo. Saresti il migliore. Cioè, il 21, il 22 e il 23. Sì. Così va bene. Benissimo. Vi leggiamo, guarda, direi di leggere l'annuncio, come si dice, il... Slogan, no, è troppo è più lungo. Descrizione, non è molto entusiasta. È un po' asettico, infatti. Sì. Comunque, descrizione. Il Natale si avvicina, i capitalisti si sfregano le mani pensando a quanto guadagneranno per un mondo più bello e più buono. Amazon sta progettando catapulte per lanciare i regali direttamente nei camini, o in alternativa usare renne pagate 2 euro l'ora. Nardella pensa solo alle luci e alberi di Natale, sparando acqua sui bambini che mangiano panettone sui sagrati delle chiese. E tu? Altro che regali, altro che cenone e vacanze, solo una cosa puoi avere in testa. Il Nataleone. Basta, io ho finito qua. È perfetto. È perfetto il comunicato. Beh, sì, è bellissimo. Comunque. Bello. Allora, cosa succederà però in questi 3 giorni di Nataleone? Perché nel senso, un po', sì, se no è veramente fiato sprecato. Allora, giovedì 21 dalle ore 17, sì, troviamo una chiacchierata sulle situazioni giovanili dentro e fuori l'università. Sì. E... iniziativa, comunque una chiacchierata. Sì. Tutta la questione poi abbiamo anche seguito, seguiamo anche pure noi da un certo punto di vista, l'abbiamo seguita più dal punto di vista della sternanza scuola-lavoro, però si parla invece della della realtà fuori e dentro l'università, quindi lavoretti di merda pagati una miseria, tirocini non retribuiti, sì, e tutto quel marasma che c'è, sì, all'interno dell'università, quindi molto divertente. E in proiezione alla fine di questa chiacchierata c'è la proiezione del film Smetto Quando Voglio, che è divertente, è carino. Ma è dell'ultimo? Siamo, sì, al terzo, sì, penso la manderanno il primo e manda all'ultimo, non alla serata. No. Sì, sì, sì, esatto. Secondo me mandano il primo. Direi di sì, anche secondo me. Ok. Per forza. Certo, poi okay. DJ set, cibo, birrette. Bene, birrette sempre. Sempre. Venerdì 22 invece, sì, la seconda giornata, dalle ore 18, dalle cariche della polizia in piazza Santa Giulia a Torino allo svuotamento delle piazze della nostra città. Parliamo del processo di criminalizzazione dei nostri bisogni di svago, gratuito, e socialità. Per cena i nostri cuochi vi stupiranno, dice. Ok. Ale. Secondo me fanno. Bravissimo, sì, regista. Bravissimo. Salve, bravissimo, è vero. Sabato 23, quindi c'è questa tre giorni, giovedì, venerdì e sabato. Sabato dalle 15.30 in poi ci saranno un'altra. Ci sarà un'altra chiacchierata appunto sul tema del Kurdistan. Esatto. Se non potete andare mercoledì, o se vi siete particolarmente gasate mercoledì, tornate sabato. E dalle 18 in poi Vimbrolè, gara di torte. Se porti la tua partecipi pure alla gara. Se non mangi, tranquillo. E cosa si vince? Chi lo sa? Una torta sarebbe. Poi c'è il tombolone, attenzione, grande, la grande tombola prenatalizia, lotteria, insomma, i giochi. Scordi sgagnazzi. Scusate, non c'entra niente da Arsene Eventi, però... Io stavo a pranzo in un ristorante cinese e c'era la c'erano lì esposti i premi della tombola, sì, di Capodanno dentro quel ristorante cinese. Del Nataleone. Cioè, Capodanno. Io forse un Capodanno. Al ristorante cinese lo devo sparire. Grande tombola! Grande tombola di Natale. Va bene. Va bene. Quindi c'è questa tre. C'è questa tre. Chiuso tre. Vabbè. Anche te te le cerchio. Sì, infatti. Allora, senti, però sabato 23 in realtà c'è anche un altro evento. Sì. O sbaglio? Sì, sì, non sbaglio mai. Non sbaglio mai. Nel dubbio. Bah, parliamone. In polveriera sì, c'è l'Aperello Benefit Compagni Denunciati. Sì, compagni di chi? Compagni anche nostri, ma sì, soprattutto del, sì, del, sì, collettivo Scagalileo. Sì. Allora, alle ore 17.30 un ottimo cineforum. La proiezione di che cosa? Di un documentario su Pepe Mujica, che bravo, è stato il presidente, l'ex, cioè è stato appunto il presidente dell'Uruguay. E niente, non l'ho visto, quindi non so che cavolo dire, ma me lo guardo sabato, e come forse anche voi. Assolutamente. No, non, certo, ti vedo, perché c'ho il microfono messo. Aspetta. Perché ti cala. Eccolo. Il mio è troppo alto e il tuo è troppo basso. Cioè il tuo è altalenante. E comunque poi appunto si diceva Aperello, quindi ci sarà anche l'aperitivo. Loro lo chiamano Aperello perché sono molto più giovani di noi, ma noi lo chiamiamo aperitivo. E quindi cibo, birre, vino e musica, tutto quello è sempre, cioè, soliti prezzacci. Sì. Però dalle 17.30, quindi una seratina divertente, se sì, volete. Sì. Si possono fare entrambe tranquillamente. Sì, tra l'altro, perché basta andare a piedi, attraversare il centro, senza di Firenze, nessun tipo di problema. Senti, prima dell'ultima sorpresa della giornata, sì, che, meno male a questo punto è l'ultima, se no ci piglio un coccolone alla fine dei conti. Sì, certo. Direi di mandare una canzone. Forse mi guarda sempre con l'occhio. Voglia. No, anche ho messo una canzone sottofondo che mi piace tantissimo. Ok. E la manderò, e te la sei bruciata a questo punto? No, ok, la è questa ormai, va bene. Vai. Pezzone? Vai, pezzone. Dai. Eccolo. To ask someday our ocean will find its shore. So I'll leave the ways of making me be what I really don't want to be. Leave the ways that are making me love what I really don't want to love. Time has told me you came with the dawn. A soul with no footprint, with no thorn. Your tears, they tell me there's really no way of ending your troubles with things you can say. Tell you to stay by my side, oh, to keep on trying till there's no more to hide. So leave the ways that are making you be what you really don't want to be. Leave the ways that are making you love what you really don't want to love. Time has told me trouble cure for a troubled mind. Time has told me not to ask for more, for someday our ocean find its shore. Hey, rieccoci qua. Guarda, era l'energia che strabocca. Certo, hai ragione. Allora, questo pezzo, questo pezzo si chiama Time Has Told Me. È di Nick Drake. Ora, io Nick Drake fino a poche settimane fa non... in realtà pochi... No, non sapevo che fosse in realtà. Vergogna. E sì, colpa mia. E però bisogna ringraziare, cioè devo ringraziare... Dobbiamo ringraziare il Dalai Lama. No, il Dalai Dama, attenzione. Dalai Dama. Dalai Dama. Volevi ringraziare il Dalai Lama. No, il Dalai Lama no. Grazie al Dalai Lama. Ero frizzato. Fanculo al Dalai Lama. Allora, fanculo al Dalai Lama, grazie però Dalai Dama. Lunga vita al Dalai Dama. Perfetto. Perché in una puntata di Tonight Alive, proprio qui su questa radio. Esatto, la puntata del 5/12/2017, sì, però. Su Radio Wombat. Computer, sì, su Radio Wombat. Sigla! Calma. Ci stava tutto. Nulla, ha fatto una puntata intera su Nick Drake, passando un sacco delle sue canzoni, raccontando la sua storia, e andatevela a sentire. Se... È una super puntata, io me la sono sentita. Vai, è bellissima. Tutta. Cioè, proprio bello, tutto bello, le canzoni sono belle e Dama è bravissimo. E nulla, andate sul podcast Tonight Alive, scorrete per un secondo e lo trovate e ve lo ascoltate. Basta. Of the Night. Allora, però secondo me è arrivato un altro momento sì. piacevolmente interessante. Sì, diciamola così, in questo modo caldo e accogliente. È il mio sì. mood di oggi. Beh. Però non abbiamo una sigla ancora. No, potrei... sigla non, c'è, non è pervenuta. Ok. Allora, ciao amici. Oh, bravo, eccomi. Grazie. Oh, ma già avevo fatto capolino. Ci hai tolto da lì. Non sono mai stato bravo a aspettare. Ciao Mario. Ciao Mario. Allora, ho portato una canzoncina che introduce il tema. Oh. Lo sappiamo quando faccio la rubrichetta su Firenze, che si chiama Lazio entra Lazio, fatti facce faccende e fattacci da Firenze. Esatto. Ho inventato fattacci. No, facezze. Sì, no, me l'avevo tutte le volte. Ma, ecco. Come facezze. Viene, viene. L'importante è dirlo in un colpo solo. Vedi. Ho portato una canzoncina. Bene. Ce l'abbiamo, capo. No, quella è la sigla. La mia senti. Ormai sentiamoci. No, pare che non legga il file. No. Questo cambia ce tutto. Qua, ma non no. Cambia tutto. Ci penso io. Dimmi. Beh, riprovo, riprovo. Silenzio. No. Riprovo un'altra volta. Vediamo se esce. No, se non ha ma senso. Se la facciamo la prossima volta. La puoi mandare diretta da. Non fai la puntata. Dal computer, forse. No, aspetta, ma prova a darmi il cavetto. Facendo. Da quel sito diciamo cosa sta per succedere. Stai per scappare il cavetto. Provo io. Questo è Cinema Verità, Radio Verità. Questa è la Radio Verità, cioè sta succedendo. E intanto i nostri operatori montano la nuova attrezzatura per procedere al cambio di emissione del segnale musicale. Esattamente quello che sta succedendo. Scusateci su Radio Womba. Scusateci sempre, in realtà i nostri tecnici proseguono con celerità. No, non funziona. Dai, ora mi dici il no, pezzo, no, lo no, scarico. No. Ma la speranza alla fine al volo. Muore anche. Dai, vai, vai. Lo vendo su YouTube. Sì. La disperazione. Vabbè, allora, sentiamo l'Istituto Luce intanto. Facciamo in diretta. L'Istituto Luce, l'Istituto Luce. Vai, digita. Digita. La rete dell'internet. Comunque. Oh! Da. La sigla di ci sta impazzito completamente. Oh Gesù, ho paura di quello che sto vedendo. Questa. Cazzo. A meno, okay. La meno peggio. Okay. Ah, dammi il cavo a me, scusami. Sì. Dai, abbiamo risolto. È l'ennesimo tentativo dei nostri. Facciamo finire la pubblicità. Sì, ormai la puntata sembrava perduta. Ma i nostri eroi. Che follia. Ah, io sto per intanto. Perché qui è partita intanto. Ah, sì, boia. Ecco. Bene. Poi. Se mi deve avvicinare. Poi vi ricordiamo che lunedì prossimo è il 20. 4. Devi da stoppare. No, il 25. 25 Natale. E andremo in onda? Sì, non lo sappiamo. Non lo sappiamo. L'unico modo per saperlo è collegarsi tutto. Su Radio Womba. Su Radio Womba. Cosa sta succedendo? Potrebbe essere di sì, come potrebbe essere di no. Allora, la professionalità è alle stelle qua. Allora, proviamo. Parla, sento una voce. Tutto per la canzone dei numeri. Ah, siamo noi stessi, che bello! È veramente è tutto. Un lavoro. È come quando ti guardi allo specchio, cioè hai tanti specchi. Chissà se lo lasceremo nel podcast tutto quello che sta succedendo. Allora, alza un attimo che è già partita qua la sigla. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, va bene così. Seguiamola un attimo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 10 10 la sfatica per questa 11, 12, 13, 14 perché non avessi mi stava facendo ridere mentre succedeva tu 16, 17, 18, 19, ora ci vorrebbe un po' di pazienza 20, non distrarre 20 ci vorrebbe un po' di pazienza perché noi dovremmo riuscire ad arrivare fino al 1702. Cosa? E tu no, non dobbiamo farlo. Ah. Però se avessimo pazienza dovremmo arrivare fino al 1702 per degnamente introdurre molto questo. Tempo libero, direi. 9 30, no, 30. Avete notato il dato? 546.000 visualizzazioni. Però c'è anche metà che non mi piace questa roba. Va avanti questo... all'infinito? No, mi sa che a 100 non c'ho più voglia. Però almeno fino a 100 ce l'abbiamo. Se lo mandiamo 17 volte possiamo fare i nostri 1700, per esempio. A noi ci interessa arrivare al 1702, okay. Che è il numero che è incassato nel muro sopra alla porta che sta al numero, a proposito è tutto un numerio oggi, vai. Che sta al numero 7 di Piazza dei Pitti. Ora, okay. Piazza dei Pitti, una piazza piena di meraviglie, è ricca di meraviglie. Ci sono tantissime curiosità, tantissimi fatti e le affronteremo nelle prossime puntate. Per adesso ci vogliamo soffermare soltanto sulle targhe. In particolare ci sono qualche targa interessante, c'è quella al numero 22, per esempio, che segnala che Dostoevsky lì stette a scrivere 2 anni la sua celebre opera L'Idiota. Beh, nel 1868 e 1869 fu in Piazza dei Pitti il numero 22 che scrisse. Così come possiamo dire che Carlo Levi scrisse sempre in Piazza dei Pitti, ma al numero 14, nel 33, nel 43-44, in clandestinità, fra l'altro ospite della partigiana Anna Maria Echino, Cristo si è fermato a Eboli, dove fra l'altro, come avrebbe ricordato pure nelle pagine di un'opera successiva che si chiama L'Orologio, e di cui, attenzione all'estratto, fascisti e tedeschi mi cercavano e io passavo gran parte del giorno in una casa segreta con carte false e falso nome e scrivevo seduto a un piccolo tavolino vicino alla finestra. La piazza Pitti si ergeva davanti a me. Quindi Carlo Levi, Dostoevsky, tante persone legate al mondo degli scrittori hanno legato il proprio nome a Piazza Pitti, ma non ci interessa adesso perché noi vogliamo parlare del numero 7 di questa piazza, che è quello più spostato verso Porta Romana, dove sopra la porta, non concentratevi sui numeri, ascoltatemi, no, perché scusa, anche fra poco si arriva a 100. Quando arriva a 100 bisogna mandarlo all'inizio. Possiamo fare un refresh, oppure mettere un... Vai, ci penso io, vai avanti. Siamo al numero 7 di Piazza dei Pitti. Sì, di questa, dove piazza questa piazza, ma tante, poi quelle più belle arrivano dopo. Questo è un piccolo aperitivo numerologico. Okay. Noi troviamo sopra al numero 7 una targa, lapide di marmo incassata nel bugnato della parete con scritto 1702. Oh. Ecco, non si riferisce quel numero all'anno di costruzione del palazzo, né a nessun'altra cosa tipo date, bensì quello è l'ultimo numero superstite dell'antica numerazione civica di Firenze. Che non si svolgeva come oggi, cioè strada per strada e piazza per piazza, ma semplicemente a salire. E peraltro funzionava e andava complessivamente di era tutta la città. A salire, cioè tipo iniziava nell'antico nucleo romano, che era attorno a Piazza Repubblica, e là c'era 1, 2, 3, 4, 5. Poi andavi verso il Duomo, Piazza Signoria, e iniziavi a salire e arrivare al centro. Questa cosa è ancora viva, però funziona divisa per sestieri. Loro invece che i quartieri, come noi, hanno i sestieri, cioè hanno 6 zone della città. E ogni zona, che è grande come una città, cioè bella grossa, comunque è un'isola, ha tutti i numeri unificati, cioè una sola numerazione, insomma. E arrivano a 3.957. Cioè, ma quindi ci sono doppioni, tipo c'è il 66 è doppio, vedi? Sì, però c'è Cannareggio, sì, 395, sì, certo. Oppure Rialto, 395, sempre pure. Sì, sì, ok. Sì, sì. Bello. E a Firenze invece andava tutto a salire, infatti, non per sestieri, ma complessivamente nella città. E infatti attorno al nucleo romano poi si svolgeva verso San Giovanni il quartiere, arrivando di là d'Arno col 1286. Si sfaceva tutto in di là d'Arno, San Niccolò, e poi riarrivava di qua in Santa Croce oltre l'8000, tipo era tutto perché cresceva col crescere dell'urbanizzazione della città, certo, che non c'erano case, si andava lì, e poi quindi era tutto un mescolio. Sì, sì. A un certo punto non ci si capiva più niente, e quel momento era il 1865, questa sì invece è una data, quando è stato deciso di riformare il sistema in quello attuale, dividendo semplicemente le vie piazza per piazza, come dicevo, strada per strada. Fine. L'ultima testimonianza che rimane di questo antico sistema di numerare la città, fra l'altro, sta proprio lì in Piazza Pitti al numero 7, dove sopra ci si vede ancora questo numero, che è l'unico rimasto di tutte le case di Firenze. Cioè, le altre sono state portate via tutte. Sì, hanno messo quelle targhe nuove col numero nuovo. Che senso ha? Potrebbero anche togliere quello. Quello è, vabbè, quello rimane come testimonianza esclusiva. Teniamola. Io sono pro. Più unica che rara, Parosa, direi. Ma fra l'altro, a nota di curiosità, diciamo anche che non so se tutti lo sanno, ma i numeri civici di Firenze sono divisi per rossi e blu, che fra l'altro penso sia un caso unico insieme a Genova, se non sbaglio. Questo. Ah, non è così da tutte le parti? No, no. Io penso solo Firenze e Genova. E quelli rossi sono per commerciali. Identificano quelli che erano o sono ancora edifici commerciali, mentre sì, quindi ci potrebbe anche la casa, dipende poi dalla vita di quel portone. E però invece tendenzialmente i blu indicano ma più le neri case. Che blu forse, o blu. Blu. Okay. Sono blu, se li vedi sono blu. Neri, comunque i rossi si identificano. È come quando si dice vino nero per dire vino rosso, non è nero, è rosso. Si può capire, ma non è buono, è come i numeri civici. Si possono capire, ma non è buono. Sì, vabbè, qualcuno lo dice. La banda Bardò è vino nero, contro la civiltà, se vuoi. Però l'avevo presa come licenza poetica. A proposito di numerazioni, tra l'altro dico l'ultima cosa, che le vie sono numerate in un senso particolare a Firenze, anche questo penso sia un caso unico, forse insieme a Pisa, che seguono la numerazione secondo il corso dell'Arno. Le vie che vanno parallele all'Arno hanno l'1 verso la foce e il 100, dici, metti, verso la sorgente, tutte. Le vie invece che tagliano l'Arno perpendicolarmente, non lo tagliano, che vanno perpendicolarmente all'Arno, hanno l'1 verso l'acqua e il 100, cioè il numero finale, verso insomma la fine. Fico. Vanno a salire in modo. Vabbè, cioè, infatti, è vero. 200 Prego, amici, per questo mio ottimo contributo. Bellissimo, che bello, incredibile. Che bello. Ora stop, perché chissà qual è il video consigliato successivamente. Dai il cavo al regista. Se poi te lo dico, cosa c'è. No, ve lo dico io. Sono i numeri con i pesciolini, che sono belli. È bello anche il numero dei pesciolini. Vabbè, di questo forse mettiamo anche il link anche di questo. Dei pesciolini, cioè, però non mancheremo. Non ce lo trovo più, peccato. Io non so cosa vuole fare il regista, perché è la persona più misteriosa che abbia mai conosciuto. E il link niente, è misterioso. Mettere semplicemente un sottofondo niente, per noi. Perduto, iperduto. C'hai un microfono per lì, puoi parlare. Sì, e ma dirci cosa pensi. Era occupato finora, oggi okay. È lo tiene all'altezza capezzolo. Sì, non vabbè, capito capiamo. Perché. Che facciamo? Cioè, fare un sacco di cose. Che regia facciamo? Non essere difficile. Ti gratti. Sono le 6:40. Ok. È l'ora di salutarci? È l'ora di salutarci, non sì. Non so, cioè sì. Volendo possiamo continuare, ragazzi. Basta ci chiamate, dai. Un messaggio se su... qualcuno ci sta ascoltando una... Sì, anche secondo me. Vediamo, vediamo. Allora, se qualcuno ci manda e un messaggio sul gruppo, sulla pagina Wombat, che dice continuate prossimi... sì. Noi continuiamo. Vabbè. Vai. Quanto deve passare? Ci pagano gli straordinari? Sì, sì. Non sì, ci vero. Pagano neanche normalmente. Quindi quindi vabbè, ripetiamo. Ma davvero pagina... succede? Sì, ragazzi. Sta succedendo questa cosa. Io metto la pagina. Non questa non cioè, era una canzone vedere... di Ligabue? No. Che c'è? Ligabue. Del mondo. È sì, il plagio. Il plagio. Il plagio. Allora, vado sulla posta della pagina. Ricordiamo i contatti a questo punto. Bravo. Non per mandarci un messaggio adesso che abbiamo freddo, ma per il futuro. Vabbè, allora potete scriverci a postawombat@censiberia.net. Come sempre, diciamo, da inizio anno ancora non ci avete mai scritto. Ma non è vero, guarda. Infatti è una bugia. Ah. Aspetta, quello c'è scritto? Sì, tanti. Sì. Ma noi, Dio, fuori alle polveri, per lo ha... più ci mandano numeri di telefono. Non ti svilire. Davvero? Sì, perché ci amano tutti. Va bene. Comunque. E se no, sulla nostra pagina Facebook. Ok. Per ascoltarci è dove già ci state ascoltando, quindi già lo sapete, però ve lo ridiciamo. Fatto, adesso, perché... se non ci scrive nessuno, c'è il buco nell'acqua della Wombat, della radio. No, no, ma invece... Vediamo, vediamo, dai, se è l'ora di finirla e si va a casa. Nel senso, vabbè, non ci vedo nessun problema. Comunque devo credere, devo dire che non ci credo molto in questa cosa dell'audio autogestita, indipendente. Dovremmo vendere tutta Radio DJ, porco di... Zitti. È arrivato davvero. Quindi Radio DJ, vediamo un altro pezzo? No, abbiamo un'altra rubrica in realtà. Cazzi nostri ora. Ora sono cazzi nostri. Abbiamo un'altra rubrica. Voglio vedere se te ne... Ora sigla! Sera. Vi prego, continuate a scriverci se ci siete. Maldonato? Attenzione, sentiamo Maldonato. Ce l'hai? Che succede? No. Manda Maldonato. Maldonato. Sigla, devi trovare la sigla. Lo sai qual è? Non ce l'ho. Dai, devi trovarla. Dai, non puoi non trovarla. Mettiamo un pezzo intanto. Ormai se si va avanti un quarto d'ora. Mandiamo un pezzo, poi io ho un'altra. Come le locomotive. Capito? Se ci scrivete, vi rispondiamo. I'm not crazy. Well, that's not true. I've got a pen, and I need. Boh, no, eccoci, sì. Ciao. Quindi che succede adesso? Adesso, come abbiamo promesso, visto che c'è una simpatica persona che probabilmente ci ha scritto, e che sta succedendo? No. Aspetta, beh, cavetto a lui. Ve lo dico in microfono, tanto ormai sono saltati gli schemi. E è tutto rotto. Comunque, una nuova rubrica per noi qui su Focal Volver in diretta su Radio Wombat. Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Eccoci. La Formula 1 è finita, il campionato è finito, non succede niente di interessante, ma se ci impegniamo qualcosa lo riusciamo comunque a trovare. Per esempio la grande telenovela Williams. Allora hanno annunciato tutti quelli che sono i piloti e le scuderie del prossimo anno. Tutto chiuso, tutto, tranne la Williams. La Williams è una storica scuderia inglese. Il capo della Williams è Sir Frank Williams, un grandissimo uomo che adesso però non è paralizzato. E lo porta nel... Sì, è vero. Ma perché correva anche lui? No, no, per anzianità. Cioè, correva pure, poi ha fondato la scuderia, ha vissuto una vita lunga e felice. E adesso sta, però, è una cosa buffa, ma non fa ridere, cioè, non bisogna ridere infatti sulle disgrazie, ma sta a diritto. Cioè, lo portano, gli hanno dato una macchina e lo fa sta a diritto. E sta tipo legato con delle cinghie, una specie di ferro alto. Non sta in carrozzina lui, sta su. Ma sono tipo quelli che sono a giro... Sì, in piedi, lui sta su in piedi anche se... Quelli che hanno tipo i turisti, io me li immagino così. L'hai mai visto? Cosa? No, lui dice, vedi lì le due ruote, i turisti e Segway. I turisti e... Segway. Come, sì, le bighe, no? Le bighe moderne, quelle... Non ce l'ho preso. Automatiche, dai, quegli attrezzini. Ah, i sidecar, tipo. Ho capito, come si chiamano i... Segway. No, è una roba tipo dietro, immaginati una forma stilizzata di uomo. Come si alza Dracula, non sferato, no? Come... Bravo. Sì, tutto un pezzo, roba. Tutta una tavola. Come un Jesus, anziché le braccia larghe ce l'ha giù. Ma tipo. Lui è così perché davvero, perché solo per l'anzianità? Sì, oppure sì, perché no, ha è un uomo, vissuto una lunga vita, dico. Felice, però ogni tanto lo continuano a portare alle gare. Quelle di solito dove si aspettano la Williams. È una vecchia passione della vita. Frank Williams, è il grande fondatore della Williams, la scuderia inglese di bandiera assoluta. Rom, vai. Allora, Sir Frank Williams, fra l'altro c'è una figlia, Claire Williams. Claire Williams è la patrona attuale della Williams, l'unica donna capa di una scuderia, che adesso si è un attimino ritirata, lasciava Paddy Lowe, che è il nuovo arrivato, perché lei ci ha avuto un figliolo. E quindi lei, se le saltano tutti, grande esempio, donna imprenditrice, donna in carriera, eccetera. Comunque questa Williams è una squadra con le pezze al culo. In passato c'aveva grandi piloti, fra cui Montoya, vinceva, ragazzi. Montoya era il numero uno, mi piaceva tantissimo, un altro di quei piloti. Grandi, corre ancora nelle IndyCar, ogni tanto fa qualche sproloquiata sul mondo della Formula 1. Comunque è successo che a questo punto la Williams c'ha le pezze al culo. Non c'è più una lira, e infatti è quella che si era ingaggiata, vi ricordate, l'abbiamo detto, Lance Stroll, quel ragazzino di 18 anni che non sa nemmeno guidare le cose. E che però c'è il babbo, che è il più grosso miliardario canadese, con la più grossa collezione al mondo di Ferrari, ha detto corri. E adesso lo stanno continuando a fare correre. Fra l'altro, nota così di colore, il mondo della Formula 1 è impazzito per la sorella di Lance Stroll. Una giovane ventenne che va tutte le volte ai box. Non faremo commenti, direi. No, nulla, però, ho capito, io seguo il vento, non è che... Capitalismo, maschilismo, tutto. È così. Ah, a proposito di capitalismo... Una voglia di fare battutacce incredibile. Quanto tempo abbiamo? Perché bisogna... È una trama fittissima. Incredibile. Non è ancora iniziata, tra l'altro. Questa è soltanto la puntata pilota. La puntata pilota. Parlavamo delle Green Girl. Vi ricordate che abbiamo parlato ogni tanto di come ogni volta il suo paese ci tiene a mandare le sue donne più belle, fanno la galleria fotografica e tengono le cose? Adesso, col cambio di proprietà della Formula 1, che è passato da Bernie Eccleston a questo gruppo Liberty Media americano, che la può fare un po' fichetta, hanno deciso di levare le Green Girl. O meglio, lo hanno proposto. Però i piloti si sono in buona parte schierati contro sta roba. E adesso stanno pensando di fare una cosa a mezzo. Vogliono mettere un po' di men e un po' di girl. E vogliono fare i grind men e i grind, come si dice? Insomma, gli uomini griglia e le donne griglia. Non più solo le donne, nella Formula 1. Un po' di maci, sì. Un po' di maci, sì. Però la grande polemica dei piloti a questo punto è: scusa, ma se non ci sono pilote donna, perché bisogna mettere i grind girl uomini? Per esempio, e adesso il pubblico sarà sia di uomini. Ma vaglielo a spiegare. A parte che non è vero che sono tutti uomini. Dici? Ogni tanto ci sono tre donne che vanno a seguire i mariti perché gli fanno... Ma esistono delle pilotesse? No, sì, esiste una. Si chiama cazzo, non mi viene. Giorda, con la J, Giorda. E è la moglie, però, di oddio, mi mancano i nomi. Del capo, insomma, della Mercedes. di Toto Wolff. Toto Wolff è il capo della Mercedes, okay, insieme a Niki Lauda. E la sua moglie è stata per lungo tempo la collaudatrice fra l'altro di squadra della Williams, la terza pilota, che l'hanno presa soltanto perché era sponsorizzata a coso e gli dà un pacco di soldi e qualche formazioncina sotto banco. Vabbè, però già. Sì, ma si pigliava 6 secondi a giro se, cioè, se arrivava un ragazzino che tipo dai hard, gli hanno detto prova una Formula 1, gli dava 6 secondi a Jordan. Cioè, non è una cosa sessista, è proprio che questa era scarsa. Va bene, va bene. È proprio che questa era scarsa. Non è ancora nata, forse, la donna che potrà smentire questa vecchia. Comunque, era per dire che il mondo Formula 1 parla di questo. No, no, dimmi, ma. Cioè, sono argomenti un po'. Lontano, dici, sì. dici, poi passo. No, niente, si va poco lontano. Sì. Veramente. Cioè, magari è già nata, però comunque, non ha la possibilità. Per di capirsi, farmi sì. Sì. Buona. Sì. Buona. Se c'è, no, ma in realtà se, secondo me la chiappano subito. Se arriva una donna, ma scherzi, una veloce. Ma sì, siamo in tempi caldi in cui non aspettiamo altro sì, che sì. grandi sportive. Per no, ma cioè devi dare un colpo di scena alla Formula 1. Infatti provano a fare una buffonata dopo l'altra. Ma non è che le donne sì, no, sono un attimino ingarbugliato. No, no, è chiaro, perché semplicemente che questa questione del sessismo, della... adesso è partita un'altra roba, sta facendo un casino, ha portato a questi paradossi che non se ne può parlare a meno che non si faccia, insomma, è un problema linguistico più che effettivo. Ti togliamo la linea tra pochi secondi. Ma infatti telenovella Williams, casa William, casa William. Abbiamo seguito un po' le storie di questa scuderia e adesso sa con le pezze al culo, piglia i piloti paganti per riuscire ad avere qualche soldo e rifà una vettura nuova, e in passato è stata una storica scuderia inglese. Attenzione amici, gentilmente. Amici, si sta facendo la radio qua. Chi erano poi? Non lo so, urlano qua tutti, che cazzo ne so. Allora, di cosa dobbiamo parlare? Di Robert Kubica. Chi lo sa chi era? Io mi ricordo. Dai, dai, prova un po'. Regista. Ci siamo abbassati. Bravo, bravo, molto bene. Un picchio enorme. Sì, vai. Sì. In rally, era un ex pilota di Formula 1, una promessa della Formula 1, un giovane pilota polacco che stava facendo veramente faville. Poi a un certo punto gli piglia bene, come fece anche Kimi Raikkonen, di correre nei rally. So sempre... Cosa hai messo? Bella, bella, bella! Vabbè, vabbè, vabbè. Non è più in regia. Quel che deve essere sia. Bad Boys. Ah no, ma è Tamarra, vai, va bene, se è Tamarra va bene. Ottima, ottima direi. Ottima. È successo che Robert Kubica ha fatto un mega picchio quando correva nei rally. Essa è super infortunata, ha perso la sensibilità del braccio e per un periodo è rimasto col braccio che non gli funzionava. Poi lentamente l'ha recuperato. Ad oggi c'ha il braccio destro che gli rifunziona, ma c'ha una percentuale di funzionalità in meno. Comunque questo pilota sembrava stesse morendo, è rimasto tanto in coma, sembrava proprio non se la sfangasse. Il fatto che ci sia riuscito è un festeggiamento per tutti. Negli ultimi 2 anni addirittura si è riaffacciato, tale era la bontà delle sue prove in categorie minori da pilota, che si era affacciato nel mondo della Formula 1, perché la Renault, la squadra, gli ha fatto fare alcune prove. Poi è successo che ha preso Carlos Sainz, il pilota uscito dalla squadra Toro Rosso che si è acchiappato a suon di soldoni, e quindi non c'ha più avuto bisogno di Kubica, che a questo punto sta venendo testato dalla Williams, perché sta pensando di metterselo in casa. Quindi siamo sarebbe alla un bel contemporaneità, cioè 32 siamo, anni. Siamo all'oggi. All'oggi, cioè tutte le altre squadre hanno concluso i loro piloti. Manca un posto in Williams. Questo è quello che stanno pensando di giocare. Si sta parlando di due cose nella Formula 1, dei Grindr che non ci sono più e Robert Kubica che stanno pensando di giocare. Che però è lievemente infortunato, cioè il braccetto. Sì, però gli hanno fatto fare varie prove e sembra che comunque sia ancora in gran forma. Cioè lui si sente pure in forma, dice fisicamente, mentalmente ci sono. Però c'ha 32 anni comunque. È un arrischiarsi. Sì. Però dall'altra parte la Williams c'ha bisogno di un pilota di una certa età, cioè da 25 anni in su, perché lei è sponsorizzata Martini. E la Martini è una cosa di alcolici e non può essere sponsorizzata se non da un pilota di 25 anni in su in numerosi stati. Ma dai. Quindi questo Stroll ha 19 quindi. Anni. Sì, è tutto così, ragazzi. Cioè, fa tutto bello, così. Bello, bello. È tutto così. E comunque non se lo può tenere Lance Stroll, c'ha bisogno di questo personaggio. È morto un insetto. Okay. C'ha bisogno di questo personaggio di 25 anni in su, anche se chi arriva a e sembrava fatto, era la favola della Formula 1, tutti felici, arriva a sparigliare, no, Ralf Schumacher, no, che comunque il figlio di Ralf Schumacher sta facendo le sue cose nelle categorie minori, sta correndo nei kart e aspettate il figlio di Ralf Schumacher, amici, aspettate. Comunque, torniamo a noi, quanti digressioni riusciamo a perché trovare? Perché i kart hanno anche loro una formula? No, è kart. Carte come di. Sta guardando le carte tipo a Marina di Bari. No, il campionato mondiale. All'isola di Elba. Vacanza, c'è la pista. I cappetti di carte con i copertoni. Oh, fai il campionato. È da. Vai, ok. Stamarra un po'. No, è finito. Allora, di cosa volevamo parlare però? Di questo giovane che arriva a sparigliare le carte. Si chiama Robert Kubica. No. No, no, no. Sergei Sirotkin, il russo, amici. hanno fatto fuori Kvyat, che era l'ex ex pilota della Toro Rosso, fra l'altro un certo scandalo politico, Putin pare abbia pure un po' alzato la voce su questo russo fatto fuori, e un russo in Formula 1 ci vuole, i grossi imprenditori russi vogliono che ci sia il russo, prima c'era la scuderia, ma Russia non c'hanno più un cazzo, né pilota né scuderia, e quindi ci stanno mettendo fuori questo giovane, Sirotkin, che da 3 anni sta provando a trovare un sedile, perché è un giovane, è scascio, ma c'ha un pacco di sordi, e quindi lo tengono come terzo pilota, sì. Ma non è una grande strategia, proprio. Cioè, capisco i soldi, ok, però potevi vincere forse, no? Sì, e infatti ci sono vari approcci, cioè l'approccio Williams, sì, prende piloti paganti e basta, sì, e l'approccio della squadra che ci sta simpatia a noi, Force India, che se ne fotte il cazzo dei piloti paganti, quindi dei piloti forti, perché dice così mi faccio punti, più punti guadagno, più alla fine mi danno milioni in cambio come premio. Sì, e gli sponsor, che infatti è la squadra più sponsorizzata, ma poi c'è anche il premio, che sono dobloni su dobloni quando arrivi in una certa graduatoria nel campionato. E infatti non sembra sia pagando la Williams questa strategia, al punto che mo fa fuori Kubica, probabilmente si piglia Sirotkin, il giovane, anche lui ha soldi ma che non sa andare, si perde pure la sponsorizzazione Martini a favore di tutti i soldoni della Russia, e cosa non ti succede? Secondo me arriva ultima in classifica. Cioè io ti aspetto una Williams in flop. Però venerdì doveva annunciare definitivamente chi era il pilota, tutti si aspettavano Kubica fuori, Sirotkin dentro, e invece hanno detto no, rimandiamo a gennaio, c'è ancora da decidere. Nelle possibilità c'è addirittura il grande sogno degli appassionati, il secondo ritorno dopo essere fuoriuscito di Massa, che correva già in Williams, l'anno scorso era uscito pateticamente, l'hanno richiamato, e quindi aspettiamo, la telenovela Williams non finirà, avremo molto di cui parlare nelle prossime puntate. Siamo tutti appassionati. Siamo tutti appassionati. Pensate a cosa riusciamo anche ad appassionarci. Poi è proprio una questione come famiglia Adams, con questo generale capo che si salza con una tavoletta da dietro. Le donne davanti nella scuderia e questi Joel paralizzato. È veramente tremendamente infortunato. È una delle cose che mi diverte di più nella vita, capisco. Il giovane aspirante russo. È veramente dal regime. Cosa che ti diverte? Sono cose internazionali, geopolitica. Anche per me è la prima volta nella mia vita in cui mi interesso alla Formula 1. Che poi non bugiardi, interesse, poi non è che guarderà il Gran Premio. Poi comunque c'è una base così, scusate. No, ma è tutto lì, io te lo dico da tanto. Veramente tutto su questo. DJ Schumacher, no, DJ Bizarre. Schumacher Song. Bene, ce la lasciamo in sottofondo. A questo punto ora cominciamo a salutarci, però io ti devo passare il cavo. Perché? Aspetta. Comunque, ciao a tutti, no, qui. Sì, ora ci salutiamo veramente, manderemo la classica sigla, ci risentiamo, non lo sappiamo quando, ascoltate sempre tutto il giorno sempre Radio Wombat. Passate delle buone feste. Quello sicuramente. Mi raccomando, certo. Non spendete troppo, ma state con i vostri cari. Sì. Nataleone. E tutte le altre cose che vi abbiamo detto. Ci sentiamo, boh, chi lo sa. Alla prossima. Alla prossima. Quando il Wombat lo vorrà. Radio Wombat. Radio Wombat. Ai due arcieri che hanno fatto centro è concesso di restare. Tutti gli altri gentiluomini possono levarsi dai coglioni.